pia. Cicciora pia, cicciora pia, cicciora pia, ma cicciora pia. Cicciora pia, cicciora pia, cicciora pia, ma cicciora pia. Na dekhe angadi, na dekhe pichadi, kare chhedkani jalaye jiya. Cicciora pia, cicciora. Cicciora pia, cicciora.